Voglio solo ascoltare questo canto che è dolce al mio cuore, che mi lascia sperare che la musica suoni e continui a suonare. E il mio cuore lo sa, il mio cuore lo sa, quel che voglio da te, mio bel fiore. E i capricci che fai, e i sorrisi che hai, e io brucio d'amore. La la la la. Tristezza che c'è, la tristezza che c'è dentro gli occhi in cui mi perderei. Quando non vedo lei non riesco a star bene e continuo a bruciare quello strano dolore, quello strano dolore di chi ama in segreto il suo amore. Tutto quello che fa lo fa senza pensare, io muoio d'amore. La la la la. Canto che è dolce questo al mio cuore, che e mi lascia sperare che la musica suoni e continui a suonare, e continui a suonare, e continui a suonare.